Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Che partite, che campionato, che... No, tutto gol contro gol, 2-1, 2-0. Che giornata! Allora, partiamo subito da quella che è stata sospesa. Ecco. Sì, il solito furto ai danni della povera Sampdoria, che deve vedere annullata una partita per un bel tempo che non c'è, perché la Riviera Ligure è la Riviera del Sole, quindi non ci può essere brutto tempo. Invece pare che ci sarà brutto tempo a Genova, quindi Sampdoria-Inter annullata, spostata in un primo tempo, si diceva... Sampdoria-Inter, punto. Non è che devi fare subito poi recensione di quello che c'è. Non ci accordo. Sì, vabbè, grazie. A fare una relazione introduttiva soltanto su una partita che non esiste. Esatto. Immagino adesso che cosa dirai su tutte quelle che esistono. Beh, tanto per iniziare ti dico Siena-Cagliari 0-0, che è finita. E ce la portiamo a casa, sì, quella. 12:30. Tranquilli, questa qua. Partita. Nel frattempo, diciamo invece che le altre partite sono ancora lì, tranquille. Sono intorno al 25esimo, 20esimo, 26esimo. In questo caso il Milan è tranquillo. Milan è l'unica tranquilla. Adesso dimmi, dai, diamo questi risultati, così poi possiamo parlare di queste cose, possiamo commentarle. L'hai detto tu, il Milan è tranquillo perché sta vincendo 2-0 contro il Palermo. Il gol è stato segnato pochi minuti fa, il secondo da Balotelli con una ripresa di un pallone sulla respinta del portiere, il primo ancora Balotelli su rigore, quindi 2-0 del Milan sul Palermo. Fiorentina-Genova 2-2, Napoli-Atalanta 2-2, Pescara-Chievo 0-0. Vuoi ammiccare a quelli del fantacalcio? No. No, dai, ammicca un po', dai. Ma sì, dai, c'è un assist di Jankovic. Ho terminato di ammiccare. Proprio così, basta. No, invece c'è anche un assist di Ljajic. I gol della Fiorentina sono di Aquilani, appunto, con assist di Ljajic, e di Cuadrado. Per il Genoa ha segnato Portanova e Antonelli con l'assist di Jankovic sul gol di Antonelli. Abbiamo già detto la doppietta di Balotelli in Milan-Palermo. Per quanto riguarda Napoli-Atalanta, sono felici coloro che hanno Cavani, perché Cavani è riuscito a segnare su rigore. Stava per prenderlo il portiere Consigli, però ha segnato, quindi gol di Cavani su rigore e secondo gol del Napoli sempre di Cavani. Per l'Atalanta, autorete di Cannavaro, e questa è una delle poche autoreti di questo campionato, ma autorete vera, perché c'è stata una specie di carambola di oggi o in generale? No, in generale. Proprio il campionato. Ormai sai che le autoreti non esistono più. È già tempo di bilanci. Non esistono più le autoreti, certo. Invece Cannavaro è riuscito a farne una. Vabbè. E il secondo gol è di Dennis, Pescara-Chievo 0-0, nulla da segnalare. Attenzione, perché intanto questa Fiorentina che si è fatta raggiungere da questo epocale Genoa, perché veramente sta facendo un partitone, sì, questo Genoa, cioè, diciamolo. Sottolineiamo le gravi assenze del Genoa, Boriello e Frey. Bravo. Che non ci sono, bisogna sottolineare una, dai, squadra di cuore, veramente il caro, sì, vecchio cuore rosso-blu che tutti amiamo, che si è impegnata, insomma, meno. Quelle cose un po' così, esatto, no? Che hanno fatto di tutto, cioè di questo momento di crisi, esatto, si è ribaltato, tiro gol della Fiorentina, e comunque è il momento di uscire fuori e di reggere un po' l'impatto. Noi ovviamente ne parleremo con il nostro mister della domenica, il nostro mister di questa domenica. Attenzione, l'abbiamo appena detto, gol della Fiorentina. Ha detto tiro gol della Fiorentina. Gliel'hai tirata, guarda. Ma come mi dispiace. Ma sei veramente una cosa brutta, ma posso dirlo. Ma come mi dispiace. Cioè, Gonzalo Rodriguez. Ma vieni, 27 partite, 6 gol in stagione. Il classico calcio d'angolo della Fiorentina con Rodriguez, mentre c'è il presidente della Fiorentina e sta ballando in tribuna che sembra faccia la lap dance. Sì. Comunque calcio d'angolo della Fiorentina. Cosa che sembra fare? La lap dance stava Sai ballando. Che non me ne ero accorto. Come mai tu conosci la lap dance? Ma così, perché? Cioè, tu sei le mosse della lap dance. Io ho fatto il liceo con specializzazione lap dance. Non è gol di Gonzalo Rodriguez, attenzione. Perché attenzione, non... ma è gol di... È autorete del... Credo di... No, aspetta, no? No. Sì, è un'autorete, non è il gol di Gonzalo Rodriguez, ma l'autorete è stato segnato, credo, da Cassani di testa, perché gli sbatte la palla sulla spalla destra. Vorrei darti dentro questa brutta notizia, lo vedremo tra poco se sarà il gol di Rodriguez o no, perché in realtà è arrivato già sul rimbalzo sulla spalla, battuto già due volte, quindi può darsi che sia stato conteggiato il primo. Intanto è il Napoli, Aurora, in questo momento. 3-2, come lo dice? Come lo dice bene, guarda, una cosa pazzesca. E poi la sua esultanza per il gol del 3-2 a 9 dalla fine. Chissà il nostro, mister di oggi se è contento di questo gol. Bortolomutti, pronto mister? Ciao a voi, buongiorno. Ha visto che gol? Sto seguendo. Mister, noi la teniamo tutta la partita perché continuano a segnare quando lei è in onda. Anche quando non l'ascoltiamo, soltanto al telefono già basta, hanno cominciato a segnare in continuazione. Allora, è un bel momento, è abbastanza pirotecnico il momento, dai, sì. Gol da tutte le parti. Sì. Vabbè, già qualcosa, se no ci si abboccava un po', diventava... No, però insomma, oggi ci sono state belle partite tutto sommato, no? C'è ribaltoni, sì. Insomma, no? Quella di Firenze, questa di Napoli, quella di Pescara un po' meno, però erano belle partite, dai, abbastanza vivaci. Però mister, cosa ci potevamo aspettare da Pescara a Chievo adesso sinceramente? Non è che alla vigilia potevamo aspettare i fuochi d'artificio e i pasticcini in campo, cioè Pescara a Chievo. Sì, ma un pochino più di rabbia forse, anche per lasciare un segno, dai, a questo punto perdere o vincere non conta più niente, però almeno cercare una vittoria in maniera così, anche per dar soddisfazione. Sì, insomma, un po' di rabbia per come hanno giocato fino adesso, insomma, è questo il concetto. Ecco, sì, di lasciare è un bel ricordo. Dare un segnale un pochino diverso. Dai. Sì, sì, sì, vabbè, insomma, però vabbè. C'è un'espulsione nella panchina del Napoli. E chi no? è che viene espulso? Non riusciamo te? A capire se è espulso Mazzarri o un dirigente della panchina, adesso cerchiamo di capire. Ecco ma qua. Perché? Ma perché? Ma perché? Dai, ma perché? Dibattito, mi sa che è Mazzarri che se ne deve andare, tranquillo, lente l'MLM 4-4. Non se ne vuole andare, non se ne sta andando, ma insomma un po' così. Non è... Ma guarda, purtroppo il quarto uomo a volte è un ingombro lì davanti. Ah no, è bigon, è bigon. Cioè nel senso che non fa vedere? Non fa vedere il campo, no? A volte non lasciano nemmeno partecipare effettivamente una certa, diciamo così, passionalità agli allenatori. Sono troppo fiscali, sono troppo attenti a dei particolari che poi nel calcio effettivamente non contano niente. No, però tra l'altro, ecco, vediamo un attimo, parliamo proprio di questo, di essere troppo fiscali, però allora, anche voi siete un po' permalosi, voi allenatori, cioè adesso questo, non ha portato rispetto a Conte perché ha esultato con i tifosi? Ma sì, ma a volte l'allenatore è un po' in trance, in certi momenti bisogna lasciarlo un po' anche manifestare con la sua... diciamo così, rabbia o gioia, devi essere impacchettato tutti i momenti della gara. Ci sono quei momenti dove effettivamente ci sono delle situazioni un pochino particolari, per cui però il quarto uomo a volte proprio è lì per la fiscalità che per me nel calcio è esagerata. Insomma. Quindi ieri comunque ha esagerato Pioli quando ha detto non deve portare rispetto Conte. Ma no, bisogna vedere da che parte la vedi, però certo un pochino più di attenzione a volte anche per l'avversario bisogna darla, comunque sono sempre situazioni un po' discutibili, dai. Cioè l'avversario bisogna darla in che senso? Nel senso che non si dovrebbe esultare, cioè l'allenatore non può esultare alla vittoria della propria squadra? Ma certo, guarda, io sono contrario ai giocatori che non esultano quando fanno gol perché hanno giocato. Il gol è il massimo della, diciamo, consacrazione. E fino a lì mi sa che nessuno dice nulla. Però ieri a un certo punto a freddo Conte ha cominciato un po' a esultare, ha incitato i suoi tifosi che erano andati lì e insomma Pioli si è un po' arrabbiato dicendo che non c'era rispetto. Ma no, ma Conte fa la sua parte, giustamente cerca di galvanizzare al massimo il suo ambiente e poi si gode il suo momento. A volte da avversari bisogna subirli anche questi momenti. Sì, ma è un momento lungo secondo lei questo di Conte? Andrà avanti? Penso per un po' sì, è sulla strada giusta. Cioè, è difficile poi sbagliare adesso, no? Cioè no, si può sbagliare, però voglio dire, adesso si è in condizioni buone, insomma, tra l'altro non... Ha un grande gruppo, una grande società, lui ormai è diventato anche abbastanza carismatico, sa i tempi, sa leggere i tempi delle varie fasi del campionato, cioè è in una situazione importante adesso da grande allenatore. Però amatura. Mi scusi, ma mister, mi aiuti un po' a capire questo passaggio, perché secondo me c'è anche un po' questa situazione, anche i giocatori, no, di per sé sono un po' più tranquilli, più sereni, cioè eppure molti di loro sono giocatori che giocherebbero fissi e titolari in ogni squadra di Serie A, eppure adesso fanno panchina in silenzio, cioè è forse anche l'impostazione che ha dato la Juventus, cioè è Conte, lui lui che decide, noi ci fidiamo di lui per i prossimi anni, se volete discutere di queste cose dovete discutere con lui. E quindi con tutti belli, dritti, tranquilli e sereni, insomma, anche i giocatori. Sì, ma te, quando vai a far parte della Juve, sai che entri in una famiglia dove certe regole sono inderogabili, per cui ti devi assoggettare ai ruoli che l'allenatore ti dà, alle scelte che fa. Questo è importantissimo. Questo a prescindere, insomma. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, insomma, nel frattempo vediamo che cosa è successo ancora. Niente. No, è successo che è stato espulso nel Genoa Bertolacci, come si dice, piove sul bagnato per il Genoa. È stato espulso Bertolacci, quindi Genoa in 10, Fiorentina 3, Genoa 2, mancano poco più di 10 minuti al termine. Intanto è arrivato un SMS per mister Bortolo Muti al 349-238-6666, il numero di SMS di Radio 24, quindi anche di Dai e Vai, non è solo calcio. Mister Muti, ci fanno una domanda che non le hanno mai fatto, è pronto una domanda che non le hanno mai fatto? È sospettoso. È pronto? Questo, cioè. Vediamo, dai. È paragonabile Maradona a Messi o Messi a Maradona? È svenuto. Sono dalla parte di Maradona, onestamente, però sono sicuramente accostabili perché sono due grandi fantasisti, due grandi giocatori. È difficile fare una scelta. Beh, io la partita che preferisco Maradona. Ma la partita che è stata fatta dal Barcellona, però l'ultima contro il Milan, insomma. Sì, ma ne ha fatte altre. Messi non è adesso, non fa testo solo la partita con il Milan. Sono giocatori sicuramente di grande livello a livello mondiale. Cioè proprio, però Messi in un contesto particolare, un grande giocatore in nazionale, non ha fatto quello che ha fatto Maradona. Maradona a 360 gradi è stato un grande, per cui Messi ancora te lo deve dimostrare, anche per carità. Cioè lui, Maradona si adattava a qualsiasi squadra, anche quella un po' così, no? Sì, un po' carciofa, come si suol dire, no? Nel frattempo un po' più scugnizzo di Messi, come piace un pochino anche questo di Maradona. Sì, forse un pelino troppo, un po' scugnizzo, devo dire. Adesso non vorrei esagerare su questo aspetto qua. Non andiamo oltre, mi sembra, in questo caso. Dai e vai, non è solo calcio. Watch this. Un aggiornamento anche dalla Milano-Sanremo, nel frattempo vicino al gol ancora la Fiorentina, Sì, è così. No, stiamo parlando del Milano-Sanremo. La Milano-Sanremo sono ad Andorra Marina, 2 minuti e 32 secondi di vantaggio. Scusate, lo dico ai nostri ascoltatori, è così, era il dispiacere che la Fiorentina avesse messo un altro gol al Genoa. Invece c'è il gol del Chievo. In questo momento, quindi 1-0 per il Chievo contro il Pescara, però stavamo dicendo Milano-Sanremo. Milano-Sanremo, siamo ad Andorra, circa 50 km dall'arrivo, ricordiamo che la Milano-Sanremo è stata... Epica. Sì, esatto, è veramente epica, neutralizzata. Ciclisti che si fermavano con le gambe doloranti, non sentivano più i piedi, non sentivano più le mani, freddo, quindi neve. Scarsamente allenati, diciamo. Ma che scarsamente, c'era un freddo poco. Ah no, ecco, se non diciamo però il meteo, esatto. Il meteo, pioggia, il Turchino chiuso per neve. A Ovada li hanno fermati, scesi dalla bicicletta, neutralizzata la gara, tutti sul pullman, e poi hanno ripreso dopo praticamente ad Arenzano, hanno ripreso la corsa. Adesso siamo a 50 km dal traguardo, c'è in fuga un gruppo con 5 corridori che sono Montaguti, Rosa, Belkov, Lastras e Bach, e hanno 2 minuti e 35 secondi di vantaggio sul gruppo. Devono ancora fare tutti i vari capo, la cipressa, poi il poggio. Vabbè, devono ancora adesso non fare tutto il percorso. Deve decidersi tutto. È una cosa lunga. Vabbè, insomma, questo è l'aggiornamento per quanto riguarda ovviamente la Milano-Sanremo, che seguiremo nel limite del possibile, perché così c'è nebbia, c'è i collegamenti sono quelli che sono. Guarda, arrivano più o meno fra un'oretta, attorno alle 18:05. Vabbè, adesso nel caso dire. Mentre allora, c'è GR arriva. Torniamo con il nostro mister. Allora, mister, allora, Bortolotti qui con noi. Allora, però allora, abbiamo capito. La partita è andato via anche Mazzarri? Non so se l'hanno espulso. Anche lui è espulso anche lui? Sì, ma, mister, ecco, una cosa, ma voi non vi sentite un po' protagonisti del Grande Fratello? C'avete il quarto uomo che ascolta tutto quello che dite, poi c'avete quello di Sky che sente e riferisce tutto quello che dite, poi c'è quello di Mediaset che sente e dice in televisione tutto quello che dite. Cioè, non vi sentite un pochettino come veramente il Grande Fratello, no? Hai ragione, ormai parlano tutti con la mano sulla bocca, paura. una volta ci si esprimeva, si rideva, ci si incazzava, adesso devi stare attento a qualsiasi sfumatura, perché se ti arrabbi con un ragazzo è perché ci sono dei problemi nello spogliatoio, se ti arrabbi con l'arbitro effettivamente... Sì. Certo, se poi lo prendi a cazzotti il giocatore forse è meglio di no. Ecco, forse. Ma lei ha mai parlato con la mano su, davanti alla bocca? Dica la verità. No, mai. Non mai. Non mi viene. Non viene. Ma perché se lo dimentica oppure perché è contrario? Proprio non. A parte adesso posso anche parlare perché non ci sono mai, ma altre volte. Sì. Se va a chiedere mai. Il pane con la mano davanti alla bocca non è bello, cioè, dal verduriere. No, cioè, no sono atteggiamenti che non capisco onestamente, però effettivamente a volte certe espressioni che tu ti escono e vengono un po' strumentalizzate, per cui bisogna stare attenti anche a quelle cose lì. Ecco, però adesso però certo non riusciamo a capire bene, c'è il Grande Fratello sicuramente e speriamo che vi portino in giro a fare tante serate poi, no? nelle discoteche. Però la cosa che ci lascia un po' così, anche perplessa, è perché sul 3-2 Mazzara si fa sbattere fuori per perdere tempo, non ho capito. Non ho visto, l'ho visto anch'io, sto seguendo la televisione, l'ho visto lì appoggiato al sottopassaggio, non ho capito per quale motivo, non si è visto. Si è annoiato. Senta, mister, ma se lo ricorda un campionato più triste e tetro di quest'anno? Allora, sì. Siamo a nove giornate dalla fine. Lo scudetto è già finito. Fallo dire a lui. Adesso lui conferma, vero mister che conferma? Assolutamente no, è tutto aperto. Ecco, grande mister, grande. No. Poi due su tre sono già in Serie B, Pescara e Palermo sono già in B, giusto? Sì. Ecco, non c'è più niente, c'è solo un po' di corsa a Champions. C'è la Champions, dai, teniamo buono il terzo e il secondo posto, visto che il Milan ha recuperato bene, il Napoli sta vincendo, ci sono questi obiettivi che possono creare interesse. E poi anche Siena che pareggiando oggi, Genoa perdendo a Firenze, effettivamente la lotta per la salvezza è riaperta. Per cui ci sono degli interessi, dai, anche se effettivamente per il campionato è chiuso, lo scudetto è assegnato ormai. Sempre per gli sms al 349-238-6666 c'è arrivato un altro sms che dice: cosa aspettano i dirigenti del Milan a far ritornare Fabio Capello sulla panchina rossonera? Ma mi sembra che in questo momento ha recuperato alla grande il Milan e non può che migliorare, visto che poi ci sarà una campagna acquisti mirata poi, no? E che diventerà sicuramente molto più forte di quello che c'è adesso. Chievo ancora con altro gol intanto. Guarda, tre mesi fa Allegri era a casa sulla graticola, adesso l'allenatore più richiesto a livello internazionale, per cui penso che sarà dura per Capello rientrare al Milan. Sarà facile. Sì, è durissima in questo caso. No, ma anche perché poi la sensazione che comunque adesso, a prescindere dai pregi e difetti di Allegri, mi sembra che la squadra ormai sta girando e soprattutto non può che migliorare. Perché... Guarda, ha costruito un gruppo su situazioni incerte che ancora forse la società non aveva chiaro. È chiaro. E l'unica chiarezza era quella di mettere in discussione l'allenatore quando le cose non andavano bene. È stato bravissimo, ha avuto la pazienza di lavorare, di andare incontro anche magari a certe, non dico a certi rischi, a certe scelte che l'hanno ripagato. Ma Al-Sharawi, voi allenatori ne parlavate? Beh, Al-Sharawi è un ragazzo che era seguitissimo, è un talento dalla primavera a Padova, e sicuramente poi magari questa esplosione così immediata non ce l'aspettavamo. Cioè voi vi aspettavate sicuramente che potesse diventare un campione in futuro, però non con un adattamento così rapido, insomma. Sì, ma poi è un ragazzo di grande maturità, perché lo vedi come si sacrifica, come si applica, effettivamente anche a livello nazionale ormai è diventato un punto di riferimento per la nazionale. Sono ragazzi molto importanti, diciamo, nel movimento calcistico nostro, che è in crescita con i vari giovani che stiamo cercando proprio di porre a livello di maturazione proprio per una nazionale futura di grandi buon livello. Dai. Champions, che succede in Champions? Beh, i migliori sono arrivate. Migliori. Il Malaga non proprio. Il Malaga è dopo la sorpresa, esatto, però sai, c'è sempre. L'anno scorso il Chelsea, che non era la favorita, ha vinto, per cui bisogna mettere in preventivo anche questo. Però ci sono delle belle partite, dai. Mi dica la semifinale, due semifinali. Ma le quattro delle semifinali almeno. Ma io piacerebbe vedere la finale effettivamente Juve Paris Saint Germain. Paris Saint Germain inedita. Ah, proprio così, la new entry. la New Entry, una finale che anche per il calcio nostro sarebbe una bella sfida, Ancelotti. Di nuovo Ancelotti contro la Juventus. No, basta adesso, non vorrei esagerare. Ci manca già, mi hanno già dato ad Ancelotti, non è che possiamo dargli di un sacco di la Juve è una brutta partita, non è facile, non sarà facile. No, no. Senta mister, noi le lasciamo seguire gli ultimi minuti ovviamente del campionato, dove si è fatto male Fabrini in questo momento e sta sanguinando un po' dappertutto. Sì. Ogni volta che gli danno da bere lui butta su fuori sì, sangue, sta sanguinando come un vitello e quindi non è bellissima, no, anche la scena deve aver preso un calcio in faccia mentre lui cadeva, un giocatore del Milan gli ha dato un calcio proprio sul labbro superiore, quindi sì, sì, sta sanguinando molto, è fuori dal campo in questo momento. Noi andiamo in questo momento a chiudere perché tra poco arriverà il GR, noi intanto seguiamo ancora il Milan, grazie per essere stato con noi, a risentirci. Buon pomeriggio a voi ragazzi. Grazie. Diciamolo chiaramente, nel momento in cui manca la domanda chi vincerà questo campionato che tiene di solito i tot minuti, no, di dibattito, ma secondo me attenzione perché ancora il Milan da solo, sì, no, non so, no, no. No. La palla Niang era da solo sulla sinistra, però il cross che gli è stato fatto era troppo lungo, quindi si è dovuto allargare. Niang, per quanti anni? No, per quanti anni sognerà l'incubo del Barcellona con quel palo che ha preso? Non ci dormi la notte, veramente continui a sognarlo, a pensare a quel modo, come cambiava, capisci? Cioè, se neanche segna a Barcellona. Guarda, io ti posso dire, io ci ho messo almeno, non so, 2-3 anni per dimenticare Paccione contro il Barcellona. Ma chi ha dimenticato Paccione? Io adesso l'ho dimenticato, per fortuna. Paccione. Per fortuna, perfetto. Però ecco, questo, immagino lui che invece ha dovuto, cioè, con quel gol lì, insomma, non dico che girava la partita, però poteva probabilmente fare attenzione perché ancora batte, ancora in attacco in questo momento, sta ancora facendo qualche cosa di interessante, no, niente, temporeggia, porta via la palla, il Palermo sta ancora facendo nulla perché siamo sullo 2-0, mentre invece Milano Sanremo intanto diciamo che è finita Fiorentina Genoa 3-2 con grande gioia in tribuna. Milano Sanremo 43 km all'arrivo, sempre il gruppo a 2 minuti e 06 dai fuggitivi che sono ovviamente più avanti, però io farei un applauso. Bravo. Cancellara qui con noi. Sono Gezzo Jim. Adesso ti dico perché sono arrivato orora. Perché stavo seguendo la finale di Champions League della pallavolo maschile. Ecco. Cuneo ha perso esattamente 30 secondi fa. No. I nuovi campioni europei sono i russi del Novosibirsk. No. Dai. Hanno vinto 3-2. Ma dai. Comunque, a proposito chi è che ha perso, dillo bene? Cuneo. La banca Lanuti sì. Cuneo. Mentre ha vinto il Novosibirsk. Ecco. Quindi a proposito giocando invece della Milano Sanremo. Un applauso a Songhezo Jim, il primo sudafricano nero che ha disputato questa gara, per cui oggi ha sofferto molto certo. E si è ritirato poco tempo fa. Ha sofferto Nibali, figurati Songhezo Jim. Sono finite tutte le partite, manca solo Milan-Palermo, siamo nel recupero, 3 minuti, 48 e 35. Sono così lunghi, non mi hai capito. Mamma mia, si è fatto male Fabrini. Punizione in questo momento di Balotelli che ha sfiorato ancora una volta la traversa, di poco, insomma, vabbè, esatto. Niente. 2-0 per il Milan, partita finita perché ormai siamo oltre il recupero. 3-2 la Fiorentina sul Genoa, 3-2 Napoli sull'Atalanta. Gagliani è ancora teso, mi sembra veramente una situazione abbastanza ridicola. Finché non c'è il fischio finale può succedere di tutto. Dove sono arrivati? Sono già arrivati a Imperia? Lì ci sono delle case, c'è un po' di mi sembra tante delle case, però stiamo parlando della Milano Sanremo in questo caso, a proposito di case in questo passaggio. Se fanno vedere il gruppo dall'alto in questo momento, è finita però anche a San Siro. Non sai dov'è che sono in questo momento. No, è diciamo in Liguria, verso Sanremo, sai lì. Vabbè. Noi invece siamo qua a Radio 24, questo è Dai e Vai e tra poco adesso, anzi, proprio in questo momento arriva il GR, a voi. Dai e vai. Non è solo calcio. Watch this. Sì, lo so, siete lì a conteggiare, a fare i contini, allora questo qua ha fatto un assist, però questo qua è stato ammonito, state facendo tutti i conti voi che giocate al fantacalcio. Vabbè, allora, giochiamo anche noi un po' al fantacalcio, diamo dei dati veri, precisi, perché se no vuoi sentire Cavani? Dai, sentiamo un attimo Cavani. Appena. Questa vittoria, quindi la dobbiamo godere adesso e lavorare serenamente per per la ripresa dopo le nazionali. Sì. È un punto di puntuale, cioè, adesso. Dobbiamo lavorare, questa vittoria va bene. Se invece c'è la sconfitta, è la sconfitta salutare, dobbiamo lavorare. Io vorrei però non sottovalutare il messaggio che ha dato Cavani in questo momento. Ha detto dobbiamo lavorare per riprendere dopo le nazionali. Cioè, sì. Più preciso, più puntuale. Cioè, non è che puoi riprendere prima, cioè, riprendi dopo le nazionali, dai. Allora, stavamo dicendo dei risultati. Quattro partite sostanzialmente già decise prima che si iniziassero a giocare, cioè Fiorentina, Genoa, Milan, Palermo, Napoli, Atalanta e Pescara-Chievo, no? Forse Pescara-Chievo no. 14 gol. 14 gol in 4 partite. Hai visto? Sono tanti. Sei contento? Bene. No, sono più di 3 gol a partita, è tanto. Fiorentina-Genoa 3-2, marcatori Aquilani, Quadrado, Cassani, Portanova, Antonelli, i primi tre ovviamente per la Fiorentina con l'autogol di Cassani, abbiamo stabilito che effettivamente autogol di Cassani, e gli assist di Ljajic, Jorquera e Jankovic. Espulso Bertolacci del Genoa. Vabbè. Milan-Palermo 2-0, Balotelli, vabbè, quello si sapeva, anche questo potevano già pubblicarlo sui giornali di oggi. Napoli-Atalanta 3-2, doppietta di Cavani, di cui una su rigore e l'assist di Pandev. Scusa, c'è ancora Cavani? Dopo della mia vita privata io credo che farò sempre quello che ho fatto, andrò avanti perché è quello che devo fare io, dimostrare in campo e basta. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo tanta voglia di arrivare in alto, quindi l'unica cosa che mi interessa è dimostrare qua e dare sempre il massimo per essere sempre un professionista come l'ho dimostrato di essere. E riprendere dopo la nazionale, no? Cioè, vi siete incontrati, avete avuto anche un colloquio faccia a faccia, è stato importante per te? Sì, abbiamo parlato tutti, dopo ci ha preso a qualcuno individualmente e diciamo l'appoggio suo sempre è stato, sinceramente voglio dire che dal primo momento che io sono arrivato a Napoli ho sentito sempre l'appoggio e l'appoggio di loro, principalmente del presidente, quindi ha fatto una grande cosa secondo me in questa settimana, è parlare con tutti noi e dimostrare ancora una volta che la fiducia in noi ci sta e ci sta diciamo sempre di più, quindi siamo sereni e continueremo ad andare avanti come va bene fatto. Ok, ci hai convinto, grazie Cavani per la tua intervista insomma tra l'altro bisogna lavorare per puntare in alto, certo, se bisogna lavorare per puntare in basso diventerebbe poi imbarazzante. Dammi intanto la Milano Sanremo. Siamo a 34 km dal traguardo, 25 secondi per i tre che sono in testa, che sono Bach, Belkov e Rosa. Sono rimasti in tre dei sei fuggitivi che c'erano perché pian piano si sono staccati, quindi a 33 km dal traguardo 20 secondi li vanno a riprendere a breve. Fuori gioco invece alcuni dei nomi illustri che si attendevano per la vittoria finale, Vincenzo Nibali che poverino si è messo... non mi intrecciare gli sport però Luca, cancellare no. Cioè, se tu mi dici fuori gioco allora io penso a calcio, ma capito? No, cioè, fuori gioco nel senso che non potrà arrivare all'arrivo in tempo utile. Mi intrecci gli sport nel linguaggio, capisci che poi diventa problematico. Vincenzo Nibali mi si è messo in scia all'ambulanza, non ce la fa più, non riusciva neanche ad indossare i guantini, povero, per cui fuori come gioco povero, cioè adesso c'è freddo, dai, io sto soffrendo per loro fuori non anche che sono obbligati cioè voglio dire, cioè hanno scelto di fare uomini stoici, tu mi passi la domenica qui al calduccio, cioè. Sì, ho capito, ognuno fa le sue scelte, cioè voglio dire adesso non è che adesso di colpo diventano scelte. Ti dico soltanto cosa ha scritto Ivan Basso: davvero incredibile quello che fanno i miei colleghi oggi alla Sanremo, ma ci vogliono palle. Cioè, questo è quello che ha scritto Ivan Basso. Figura se non ci metteva il termine palle o attributi, perché di solito è questo il massimo del linguaggio che si riesce a tirar fuori. Ricordiamo 349-238-6666, 349-238-6666 per gli sms e invece 800-24-0024 per telefonare qui direttamente a Dai Vai, però dobbiamo ancora altri risultati. Sì, anche perché non capisco questa tua preclusione. Pensa quanto sei lungo con questi risultati, tra un po' finisce la trasmissione. Non capisco questa tua preclusione nei confronti di Pescara-Chievo, che hai sottovalutato come partita. No, è perché ma Chievo... per carità, ma figurati, sono qua in attesa, vai. 2-0 del Chievo sul Pescara con gol di Stojan e Terola, assist di Luciano, mentre Napoli-Atalanta, stavamo dicendo, doppietta di Cavani, uno su rigore, l'altro su assist di Pandev, e poi gol di Pandev su assist di Armero e Cannavaro autorete Denis per quanto riguarda l'Atalanta. Espulsi, ma non c'entra niente per il fantacalcio, il direttore sportivo del Napoli Bigon e l'allenatore Mazzarri. Pensa che bella situazione. Basta? Finita. Tutto così. Ricordiamo, stasera Roma-Parma, Torino-Lazio, non si gioca, Sampdoria-Inter, a mezzogiorno e mezzo Siena-Cagliari 0-0. Ci state massacrando con la Formula 1, quindi non vedo l'ora che parte. Chi è che ha riso? No, io no. No, giuro che non no, hai riso. No, riso, no, riso. Cioè, no, no, scusa. Questa era Conte ieri sera. Questa era Conte che ieri sera ha detto tante cose, e alcune un po' così, altre meno così, un po' meno, insomma. Diciamo, però ecco, pochi hanno parlato tutti hanno parlato dell'esultanza di Conte, della rabbia di Pioli nella partita di ieri. Cioè, a un certo punto Conte si è messo ad alimentare il tifo bianconero, che non era poco, sì, possiamo dire, perché sì, il gol della Juventus, si è capito che il rapporto era più o meno 50-50, sì, lì a Bologna. Sì, beh, forse 50-50 no, però comunque 60-40, cioè c'erano tanti tifosi della squadra ospite. Il problema è che lui a un certo punto si è girato verso la tribuna. Non ho capito su quale 60-40. Vabbè, comunque poi le facciamo, su quale base puoi dire una frase di questo genere? Ho fatto degli exit poll. Sì, ho fatto degli exit poll. Come sai, gli exit poll non sbagliano mai, quindi è 60-40. 60-40, vabbè, insomma, a un certo punto è stato il gol, e quindi c'è stato un urlo potente della tifoseria, ovviamente bianconera, che ha entusiasmato gli animi e soprattutto anche ha tirato su di morale, il gol in particolare Conte, e al secondo gol anche alla fine, verso la fine, ha chiesto ancora un contributo nei confronti dei tifosi nel tifo. Perché? Perché tra l'altro era da un po' di tempo che chi non salta bianconero, sì, quelle no, robe un po' così, no? C'erano stati dei cori non particolarmente simpatici da parte degli ultras del Bologna nei confronti della Juventus, e c'erano questi cori insistenti contro la Juve, quindi a un certo punto non ce l'ha fatta più, smottato. Adesso cerca di non essere veramente democristiano dentro, voglio dire. Cioè, sì, cioè, c'erano stati, no, stati dei cori offensivi. Sospendiamo tutto, che devo picchiare per attimo. No, queste cose non si passa sopra. No, però scusa, hai detto dei cori un po' insistenti. Cioè, vuoi il testo? Va bene, no, ti leggo il testo allora. No, allora, no, vuoi andiamo sapere le notizie. No, senti, me lo puoi dire però dopo, sì, il traffico. Dai, traffico in questo momento. Dunque, mi stavi dicendo che ero veramente molto, ma molto, ma molto, ma molto interessato a che cosa? Cioè, agli insulti che sono arrivati ieri, no? Nei confronti dei tifosi juventini, e non soltanto i tifosi juventini, hanno offeso un po' tutti, no? Insomma, allora, in questo caso qua, no? Noi didascalicamente citiamo quello che scrive la Gazzetta dello Sport di oggi. C'era uno striscione che è uscito nella curva degli ultras bolognesi con scritto "Juventino bianconero, il tuo posto è al cimitero", e poi fra i cori uno che è stato cantato alcune volte diceva "se Saltelli muore un altro Agnelli". Questi erano alcuni dei cori, che ovviamente poi c'è "solo rubare, sapete, solo rubare". Vabbè, questo è un classico, un evergreen per la Juve. Evergreen, insomma, da questo punto di vista. Però è uscito fuori anche uno striscione, no? Sì, che ricordava inopinatamente da parte dei bolognesi, no? Sì, quello "juventino bianconero, il tuo posto è al cimitero", era, sì, questo qua, quello che ricordava anche da un certo punto di vista la tragedia dell'Eisel con i 39 tifosi. Non bellissimo, insomma, però diciamo che c'è qualcuno che ci ha pensato, non soltanto a questi striscioni, ma sta pensando un po' anche alla parte legata al razzismo. Bene, allora andiamo direttamente a parlare con l'assessore allo sport del Comune di Milano, che è Chiara Bisconti. Pronto? Pronto, buonasera. Come sta, assessore? Molto bene, grazie a voi. Fa freddo lì fuori? No, per noi siamo al studio, tranquilli, al caldo, quindi non c'è problema. Fa freddo, purtroppo sì, perché oggi la domenica spasso è stata un po' rovinata, diciamo, da questo freddo che non ci aspettavamo, ma ce la siamo goduti lo stesso. Ecco, noi l'abbiamo chiamata perché il Comune di Milano, in particolare lei, ha lanciato una proposta per destinare una parte delle multe date alle società per combattere il razzismo. Cioè, qual è questa proposta esattamente? Allora, la proposta innanzitutto nasce da un'idea che voglio ribadire, ne approfitto, che sia un insulto razzista allo stadio, o che sia quello che è successo ormai 60 anni fa ad Arpad Weiss, a un allenatore famoso che purtroppo ha finito i suoi giorni ad Auschwitz, sì, il filone sembrerà troppo duro, però è lo stesso, quindi noi abbiamo tutti il dovere di stoppare queste iniziative, queste manifestazioni odiose dall'inizio. È un continuum che, se non stoppato, porta a quello che purtroppo abbiamo già vissuto nella storia. Quindi, al di là di questo esordio, l'idea è che queste multe, che comunque producono soldi, possano essere i soldi reinvestiti nel territorio, perché noi, amministrando la città di Milano, come qualsiasi amministratore pubblico sa bene, il territorio è ricco di iniziative che possono fare dei lavori importanti di di prevenzione alla base. In qualsiasi città, a Milano, ma in qualsiasi altra città, ci sono veramente iniziative sia occasionali sia continuative, dove partendo con i ragazzi, ragionando con loro, si può veramente fare un'educazione preventiva alla base per stoppare questi tipi di indegne manifestazioni, ecco, quindi, anche di subcultura. Quindi, e quindi l'idea è proprio alcune risorse, portiamole sul territorio, noi sappiamo veramente come investirle bene. Ecco, però di solito queste frasi però le portiamo sul territorio e poi lasciano un po' così, no? Cioè, nel senso che dobbiamo capire bene il passaggio. Allora, la trafila, se ho ben capito, è vado allo stadio, insulto Balotelli, l'Inter, il Milan o la Juventus, le squadre che vengono penalizzate, tutti quei soldi vanno direttamente in una specie di cassa comune, ho capito bene? La trafila è che innanzitutto mi auguro che questa idea bellissima si esaurisca, perché poi facendo noi prevenzione alla base non avremo più fondi, perché certo, il fenomeno non avverrà più. Però la realtà è che veramente i fondi che vanno alla Lega, perché poi la Lega certo dice questo, vengono reinvestiti sul territorio a fronte di progettualità ben documentate che qualsiasi amministrazione è in grado di fornire. Noi organizziamo questo a settembre un quadrangolare in memoria di Arpad Weiss. E questo è un esempio dove si può fare iniziative. Abbiamo alcune iniziative fatte già con Inter, Sport Zone, che lanciamo quest'anno, e sono proprio iniziative che vanno nei campi di allenamento, nei quartieri, e veramente io ho questa percezione che da la cassa che la Lega tiene lì e non sa dove mettere a portare fondi sul territorio si fa la differenza, perché le azioni partono veramente con i ragazzi sul territorio, con le persone. E l'obbligo dell'amministrazione è rendicontarle, ma veramente abbiamo tante idee. Ecco, non, ma è una frase non, è una cifra, non è una cifra però minima, no? Cioè sono delle cifre importanti alla fine, perché di cori, purtroppo, di cori razzisti ci sono ancora tanti, quindi in qualche modo l'anno scorso ad esempio le multe ammontavano a circa 277.000 euro, mica bruscolini. La chiamata che facciamo noi ovviamente è nazionale, quindi certo, queste cose succedono dappertutto. Io credo che qualsiasi amministrazione pubblica oggi è in grado di rendicontare almeno un progetto fatto sul territorio, con le associazioni del territorio, che lavora nel senso di prevenire queste cose. Quindi la cifra che lei ha detto può sembrare alta o bassa, sono sicura che se la Lega le mettesse a disposizione del territorio, delle amministrazioni comunali che lavorano con le associazioni, perché il lavoro prezioso che facciamo noi è di dare spazio e risalto a chi queste cose le fa, spesso senza finanziamento, spesso solo sul volontariato, quindi far convergere dei soldi che nascono male e vanno invece su un'attività che fa del bene, che lavora bene, è un bellissimo giro dove, ecco, il comune può fare, ripeto, da portavoce e riattirare queste risorse, per farle lavorare, perché è un problema certo culturale. Quale squadre hanno già aderito? Inter e Milan, tutte e due formalmente, quindi adesso il prossimo passo è rilanciare questa cosa alla Lega, ma a livello nazionale, perché si muove Milano e come spesso quando si muove Milano il resto segue, quindi mi piacerebbe che sia allargata. Sembra brutta come frase, però secondo me deve prenderla per quella che è. Secondo me ci sono delle tifoserie particolarmente imbecilli, puntate su di loro, cioè puntate su quella squadra, capito? Perché sono quelle che poi finanzieranno alla grande. Cioè, poi noi puntiamo alla battaglia, quindi ripeto, è un gioco che tenderà somma zero, però ecco, l'obiettivo è proprio quello. Noi la ringraziamo moltissimo per la sua disponibilità. Buona grazie domenica. Grazie a voi. Arrivederci. L'assessore Chiara Bisconti, dell'assessore allo sport del Comune di Milano, con questo progetto per destinare le multe date alle società di Serie A per progetti contro il razzismo. Se vuoi io te lo faccio sentire. Il brano? No, sì, Allegri. Molto bello. Ah, Allegri. Sì, perché c'è stato un po' di maretta quando, ecco, è uscito. Che è successo lì di preciso? Non si è capito molto bene. Si è visto un'immagine dall'alto della panchina del Milan. Quando è uscito il Sharawi non era molto contento. Ma tra l'altro, dopo l'uscita del Sharawi, Amelia, il secondo portiere, voleva andare negli spogliatoi ed è stato trattenuto da Antonini, che non voleva farlo andare negli spogliatoi. Non so se per dire qualcosa del Sharawi. Un po' di maretta. Vabbè, volevo far sentire Allegri che sta andando via. Abbiamo preso 3 gol, ma credo che questa sia la forza del Barcellona di essere molto bravo a recuperare. Ancora hanno mandato una registrazione. Hanno mandato una registrazione. Ancora il Barcellona sta parlando. State ascoltando le interviste post partita di martedì scorso. No, non è possibile. Bisogna guardare avanti, bisogna guardare oltre, non bisogna star fermi. Cioè, capito, in questo caso qua. Senti, io comunque volevo chiedere ai nostri ascoltatori se sono degli ascoltatori arbitri. Sì. Perché poi alla fine della fiera, quello che mi interessava, sull'800 24 00 24, proprio così, velocissimo, senza nessun nessun impegno, però velocissimo, se c'è qualcuno, qualche allenatore. Preferisco gli allenatori, gli arbitri lasciamoli da parte. Per oggi niente arbitri, la prossima volta. Ah no, volevo soltanto degli allenatori per dire, ma si può esultare? Quanto si può esultare? E quanto fastidio vi dà quando l'altro che sta vincendo, l'altro allenatore che sta vincendo esulta in qualche modo? Tra l'altro è esultato anche Balotelli questa volta, è raro, tra l'altro su un rigore facile, tra l'altro, esultare su quello. La cosa bella è che non hai esultato sul secondo gol. 824-0024, se proprio volete telefonare, potete telefonare oppure mandare anche gli sms 349-238-6666. Però attenzione sugli sms, perché anche gli sms bisogna utilizzarli come si deve. Vogliamo parlarne di questa cosa? Di come utilizzare gli sms? No, non volevo dire questo. No, volevo dire che c'è. Stasera ne parleremo. Però io ho questa convinzione, ho questa, questa certezza. Te la metto lì, questo passaggio qua. Ti faccio un esempio, no? Dove eri quando c'è stato l'attentato a Dallas? Anzi, lo faccio a Cancellara. Quando c'è stato l'attentato a Dallas contro John Kennedy, dove eri, Cancellara? In un'altra realtà. Cioè, non eri. Non ero ancora nato. C'è l'attentato a Dallas. Allora, Luca Gattuso, dove eri quando c'è stato l'attentato a Dallas a John Kennedy? Si può rispondere, non ero. Non c'era anche tu, non eri ancora nato. No. Tu dove eri, scusami? Allora, c'è qualcuno qua in questo studio che è diversamente giovane, non vedi dormivo in quel momento, perché notte a Dallas, cioè no, era giorno da noi, notte da noi. E vabbè, comunque, di fatto ci sono dei momenti importanti nella storia di uno di noi, in particolare nel mondo del calcio, no? Ci sono dei momenti in cui tutti si ricordano dove erano in quel passaggio. Esatto. E quel passaggio è stato sicuramente Italia-Brasile. Allora, noi tra un po' andremo a incontrare Italia-Brasile. Esatto. Nessuno ne parla del fatto che noi incontreremo Italia-Brasile. Tra l'altro, non è che andiamo proprio a incontrare proprio. No. È un Brasile vero, cioè ci sono fior di giocatori, c'è questa amichevole che è programmata per il 21 di marzo, quindi dovrebbe essere giovedì, mi sembra, l'amichevole Italia-Brasile. Questa sera arriveranno le convocazioni di Prandelli per quanto riguarda la nazionale italiana, mentre per quanto riguarda quella del Brasile sono già state fatte le convocazioni, tra l'altro le abbiamo messe nella nostra pagina Facebook. Questo ci permette di dire che abbiamo una pagina Facebook di Dai e Vai, si scrive Dai e Vai con la E commerciale in mezzo, e lì trovate anche le convocazioni del Brasile. Ecco, dove eravate voi quando c'è stata quell'Italia-Brasile? Che poi quale Italia-Brasile? No, quando c'è stata Italia-Brasile, perché tutti si ricordano la propria Italia-Brasile. Sì, perché c'è non è Italia-Brasile, non è una partita, è una partita personale. Ognuna ha la sua Italia-Brasile. In realtà sono due le nazionali che di solito si incontra e si ricorda. La prima nazionale ovviamente il Brasile, la seconda nazionale viene facile, e la Germania. E quella del DVD. No, la Germania, sì, stavo appunto, dicendo. Quella del DVD. Ma ne parleremo DVD. dopo la pubblicità e dopo il meteo. And she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. Non c'entra assolutamente nulla la California dove stiamo andando. Anzi, proprio l'esatto opposto. Voglio dire, a Milano-Sanremo come stanno andando? Freddo, gelo? Siamo a 18 chilometri dal traguardo. Ecco, con un freddo e gelo, tra l'altro. Soprattutto in discesa adesso, siamo sulla discesa della Cipressina, e Gilbert, che abita all'inzona, perché abita a Monte Carlo, quindi conosce bene quelle strade, sta attaccando in discesa. Sì, però adesso andiamo in un posto veramente freddo, c'è un posto in questo momento più freddo di Sanremo, della costiera Ligure. Dipende molto dallo sport che si fa. So che aspettavate sicuramente questo momento, cari ascoltatori, ed è il momento di affrontarlo, perché in questo momento sta accadendo qualcosa, e in particolare stanno accadendo i campionati mondiali femminili di curling. Pronto, andiamo con il nostro allenatore di curling, Fabio Alverà. Pronto, ci sente? Ci sente bene, spero. Pronto, vi sento molto bene, buonasera a tutti. Tutto bene? Tutto bene, tutto freddo, tutto okay, quanto sotto zero? Non è mica male, diciamo che le acque sono congelate, però partiamo da un meno 19 o un meno 10 durante il giorno col sole, non è male, dai. Meno 19 e meno 10, insomma. Siamo dove esattamente, diciamo? Noi siamo a Riga, sì. La capitale della Latvia. Ecco. Della Lettonia, giusto? che beh, sì, della Lettonia, si è chiamata anche Latvia, sì, sì, sì. Ah, ecco. Riga, in questa settimana ci sono i campionati del mondo di curling, come avete appena detto. Ecco. Però femminili? Femminili, esatto. Esatto. Ecco, quelli perché... maschili saranno tra 10 giorni circa, saranno in Canada. Ecco, ma l'Italia lì, con quelli maschili? Purtroppo l'Italia non si è qualificata per un poco ecco, però non si è qualificata. Ma ho capito bene, perché voglio dire, a Torino era il contrario, cioè, no? Mi pare che fossero c'erano tutte e due, ma in realtà la squadra femminile era stata recuperata perché c'era le Olimpiadi in Italia in questo caso, giusto? No, purtroppo devo dire che è proprio l'incontrario. Ah, era sempre stata la squadra femminile, quella forte? Sì, anche perché facevo proprio parte di quella maschile e purtroppo noi eravamo qualificati, la squadra maschile, per diritto, non per qualifica. Quindi tu c'eri a Torino, quindi ho capito esatto, come giocatore. Giocatore, allora. Adesso sei diventato allenatore e quindi a questo punto, a che punto siamo lì al campionato mondiale di curling? Guarda, la settimana è appena iniziata. Siamo solo alla seconda partita, la terza partita, per cui ci sono 12 partite da fare, 11 partite. È andata da male, fare, da quando parli così lontano è perché è andata male. È andata malino. Ci stiamo assestando. Siamo Fabio, per il ras finale. Fabio, se fosse andata in un altro modo, a questa risposta avresti iniziato dicendo: abbiamo vinto tutte le partite. Sì. Il fatto che non sei partito così ci fa capire che non. E poi ci stiamo assestando negli alberghi, qua e là, tutte queste cose. Però, siccome sei partito al contrario, abbiamo subito intuito che sta andando malissimo. Cioè, avete fatto. Quante partite? Non sta andando malissimo. No. Quante partite avete fatto? Abbiamo fatto tre partite però contro nazionali molto forti, sì. Dove ci stava anche quello di perdere. E infatti abbiamo perso. Ecco, però abbiamo buone speranze, insomma il nostro obiettivo è quello di arrivare nei primi 5-6 se tutto va bene. Per capire però bene chi sono quelle che vi hanno sconfitto, che ci hanno sconfitto in realtà. Che ci hanno sconfitto sono stati gli Stati Uniti, che comunque hanno una tradizione molto forte. Certo. La Svizzera, che è ex campione del mondo, ex campione sì, beh, la Svizzera, figurati. Buonanotte. Ecco, e oggi, proprio oggi, abbiamo perso contro la Russia, che è neocampionessa europea. Diciamo che comunque ci stava, le ragazze sono brave, stanno difendendo bene. Io sto guardando l'albo d'oro dei campionati mondiali femminili, la Russia negli ultimi 20 anni non compare, quindi non è che sia poi fortissima. Sì, lei è una nazione emergente, la Russia si sta prodigando in sforzi economici e organizzativi molto forti proprio in vista delle Olimpiadi di Sochi il prossimo anno. Sono in preparazione alle Olimpiadi e si hanno messo sulla squadra forte. Diciamo che sono 3-4 anni che hanno dei professionisti veri e propri, mentre noi sono tutte lavoratrici, studenti, che quindi si dedicano un po' a livello dilettantistico. Vabbè, le prossime che dobbiamo incontrare? Prego? La prossima squadra? Domani mattina a Latvia. Proprio la Latvia che è qualificata di diritto. Che sarebbe la Lettonia, noi chiamiamo così. Che sarebbe la Lettonia. Prendiamo le distanze noi. Diciamo, e con loro, Fabio, con loro. Con loro ce la giochiamo. Sono nati l'altro ieri, noi abbiamo festeggiato il 150esimo anniversario della nascita della nostra nazione. Sì, però sai, nel curling le squadre ormai sono diventate tutte professioniste. C'è sempre più ghiaccio dalle loro parti che da noi, insomma, questo è il concetto. Molto più ghiaccio, qui potrebbero giocare anche qui nel fiordo, nel mare. Senti, noi tenteremo di seguire ovviamente tutti i risultati, però dateci anche un po' di gioia e di allegria in tutto questo. Ma continua l'onda lunga di Torino 2006? Diciamo che l'onda a livello turistico sicuramente. O si è ghiacciata anche quella. Ce ne sono sempre di più. E lo sport, diciamo, che si è divulgato un po' dappertutto nel nord Italia. È più conosciuto, almeno adesso se vai da qualche parte dici sai che gioco a curling, qualcuno ti dice ah sì è vero, quello come succede, prima invece... Certo, insomma, prima non si sapeva neanche, insomma, comunque esatto. Vabbè, diciamo che ovviamente sarà il nord Italia l'unica situazione dove potrà, anche perché Siracusa, curling, lascia stare, basta una pista di ghiaccio. Pista da ghiaccio, certo, perché no? A Catania c'è una pista di ghiaccio, giusto? Grazie! Sì, ma anche Ancona, Anche ad Ancona, certo. Saluto gli amici di Ancona. Salutiamo anche noi gli amici di Ancona. Grazie mister, è stato un piacere. Saluti le ragazze che seguiamo attentamente. Dica posso dire il nome delle ragazze almeno? Ma sì, ma le dica, va questa volta. Dai, almeno. Diana Gaspari, Gasperi Maria, Claudio Alverà, Giorgio Apollonio e Olivieri Chiara. Ecco, un po' più d'allegria però, c'è cioè, un po' più di quando dici il nome della squadra, cioè, perfetto. Non dico che manca lo stadio, l'effetto stadio, però un po' più d'allegria, grazie, grazie, a presto. Grazie, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ha detto un bacio a te? No, ha detto a te, grazie, cioè, a con te. No. Ha detto un bacio a te. Non ho capito. Io, secondo me ha dato un bacio a te. No, tu non ci credi, però è così, Hanging in a trim bay, watching people sashay, past my steps, by my porch, in front of my door. Church bells are ringing, choirs are singing, while the preacher's groan and the sister's moan. No, devo dire, secondo me se c'era un obiettivo che voleva raggiungere Conte è questo, cioè voglio dire, Conte che esulta in quel modo a Bologna non ha niente di un Conte, è molto di un... No, leggilo, abbi il coraggio delle tue affermazioni, di, leggilo. Da fogna, c'è scritto così. Sì, non c'è scritto, c'è una parola prima. Così, ecco, questa, ecco, secondo me era proprio questo che voleva raggiungere Conte, farvi incazzare come delle bestie. Era un SMS sul 3439 2386 66. Beh, succede. Non lo so perché è successo, ma succede ogni tanto. Cioè, non siamo mai andati così lunghi su questo pezzo, cioè, che mi piaceva tanto, tra le altre cose, ma si è interrotto proprio in questo momento. Perché? Perché in questo momento sta arrivando chi? Sta arrivando il nostro mister della Fiorentina, Montella. Cambiano le gerarchie, ma va bene così. Vabbè. Allora, Ilaria, vediamo se Alberto Aquilani, davanti al suo allenatore, ammette... Ammette che nello spogliatoio della Fiorentina magari si comincia a parlare anche di Champions League. Ah, che spavento, di scudetto. Sono sincero e noi pensiamo di partire in partita già da un po' che io continuo a ripetere questa frase perché il nostro obiettivo è quello. Noi dobbiamo cercare di andare in campo sempre con la stessa mentalità. Bisogna lavorare. Pensare a noi e non agli altri e lavorare. Fare la partita come l'abbiamo fatta oggi. A volte dobbiamo chiudere un po' di più, forse solo questo ci manca. Dobbiamo chiuderla prima perché poi soffriamo e rischiamo magari di pareggiare una partita che non meritiamo di pareggiare. Cosa ha dimostrato questa partita? Visto che Vincenzo anche sì, grazie. Lasciamo andare. Detto io sì, Vincenzo no. Non lo so, guarda, posso chiederti di tagliare questo aspetto che ci interessa relativamente, anche perché dobbiamo andare da qualche altra parte, e cioè da... Sì, allora chiedo alla cancella di smettere, però tutte le volte che c'è questo pezzo di con l'accendino, cioè questa storia qua dell'accendino dà leggermente fastidio, voglio ma dire, perché cioè, so che è arrivato il momento del dressage, no? Ce l'abbiamo questa non settimana? Non c'è il dressage, no. Nessuno osa mandarci ovviamente il minuto di dressage, però ci sono altre che ci mandano altri minuti più o meno interessanti, più o meno utili, più o meno importanti, e bene, allora a questo punto dovremmo spiegare tutto quanto perché accade questo minuto. Sì, direi che è il caso di spiegarlo. Beh, spieghiamo cari ascoltatori, voi che seguite, voi che fate, voi che praticate il calcio, voi che praticate calci sconosciuti, voi che praticate sport sconosciuti, voi che praticate molti sport ma vi ignorano tutti, ecco, è il momento in qualche modo di raccontare i vostri sforzi, dove sono andati, dove andranno, che cosa faranno, che cosa serviranno, che soprattutto che cosa sono serviti, quindi cominciate a registrare, registratevi questo minuto al massimo, possiamo darvi soltanto un minuto, sì, un minuto. Come dice la canzoncina, è facile capire qual è la rubrica. Quel solo, ecco, concentratevi su quel solo, nel senso che già basta quel solo, non vorremmo esagerare, anche meno forse. Non meglio. Superiamo il minuto perché veramente siete anche simpatici, ma anche però, un po' meno. Adesso non vorrei proprio stare su quel minuto lì, proprio piazzato, soltanto su quel minuto. Ma com'è la sigla di questa rubrica, scusa? Ancora? Cioè, voglio dire, ecco, però dovete spedirla. Ditemi invece i passaggi veri, che cosa faccio? Io ho registrato e poi cosa faccio? La cosa migliore è utilizzare questi telefonini moderni, questi che hanno il registratore, salvate il vostro file, la vostra voce che racconta un episodio sportivo a cui avete assistito, dopodiché schiacciate quel tastino scritto invia per email e lo spedite a daievai@radio24.it. daievai@radio24, ci mandate il file audio e noi poi prima lo ascoltiamo. Poi forse poi lo trasmettiamo. Prima lo ascoltiamo, poi succede che arriva il traffico proprio in questo momento, esatto. E dopo lo mandiamo. Dai e vai, non è solo calcio. Di sera al Viking Stadium di Stavanger è iniziata la Tippeligaen norvegese. In campo i padroni di casa del Viking sfidano i campioni in carica del Molde. Sugli spalti 9.057 spettatori, tra cui molte donne e bambini. Il primo tempo è molto bello, ricco di occasioni. Minuto 10, Mostro porta in vantaggio gli ospiti. Dal vertice sinistro dell'area di rigore mette a sedere Ghiane, inganna Björdal con un'ottima finta prima di insaccare dai 15 metri. La reazione del Viking è immediata e in due occasioni i padroni di casa sfiorano il pari, che si concretizza al minuto 31. Grossa iniziativa personale del debuttante Bodvar, migliore in campo, che mette un cross raso terra, retrogusto di invito a nozze per Berisha, pareggio e fiori d'arancio per loro. Nel secondo tempo un Olsen, che aveva già avuto almeno due buoni spunti, realizza con un sinistro potente rocambolesco la rete della vittoria a minuto 57. Questa sarà l'ultima della partita, dato che il Molde non riuscirà a superare l'ottimo catenaccio dei padroni di casa, che iniziano bene il campionato. Finale Viking 2, Molde 1. Negli altri campi Olesund batte Haugesund per 3-0, mentre il Brann si impone per 3-1 sul Vålerenga. Da Giuseppe Enrico Battaglia per Dai e Vai è tutto, a voi studio. Sì. Allora, sai che non ho conosciuto un nome, ma sai un nome, uno dice sì, uno lo riconosco, no, non ne ho riconosciuto uno. Cioè, dammi solo un minuto e ha dei rischi. Cioè, no, cioè, diciamolo, cioè, non è che puoi trattare qualsiasi cosa. Cioè, ogni tanto ci sono anche delle cose un po' strane che arrivano, però interessanti. Peccato perché noi Dai e Vai, non solo calcio, adesso aspettavamo il non solo calcio, ma accogliamo anche il calcio norvegese. Sì. Vabbè, tu non l'hai riconosciuto perché no, vabbè, la cultura è un po' così. No, che l'unico che ho riconosciuto è Berisha, però lo sapevo come ma presidente albanese. Infatti, cioè, ma non c'entra niente. Ecco, non è più proprio, nel senso proprio, se per quello. No, voglio dire, calcio norvegese, giusto Luca? Sì, norvegese. Perché quindi l'unica cosa che abbiamo capito è che i Viking sono partiti col piede giusto, no? Sì. Tre punti, sciacoccia. Certo, c'è gente che appunto segue il calcio Viking, norvegese. Sì, sempre che in Norvegia chi vince piglia tre punti. Lo darei per assodato. Sì. Poi Berisha. Vabbè, dai, adesso col secondo contributo, quello del dressage, vai Sergio. No, adesso lascia stare il secondo contributo, che adesso ci lascia sempre un po' così. Cioè, in questo del secondo contributo è come al solito di quelli che lasciano sempre il segno. Che anzi, perché noi questo secondo contributo, lo sto cercando in realtà, te lo dico subito. Però. Sì, ma lo sappiamo che è sul dressage, quindi fai apposta per non farcelo sentire. Non è il dressage. No. Ma bensì, ancora una volta, il football italo-americano. No, americano basta, senza italo. No, è football americano, sì. Però è il campionato italiano. Ah, ecco, quindi diventa football italo-americano. Durante una splendida cornice di pubblico si è disputata ieri la quarta giornata del campionato di Serie 2 di football americano. Gli Highlanders Venezia si aggiudicano il derby veneto contro i Cavaliers Castelfranco-Veneto per 20-0. Nel secondo match della serata i Muli Trieste si impongono per 47-6 sui Chiefs Ravenna. Chiudono Black Rivoli Demos Martesana 0-20. Quattro invece le partite del campionato 9 della giornata di sabato. Storm Pisa, Veterans Grosseto 28-12, Cowboys Selvazzano, Thunder Trento 0-8, Wolfpack La Spezia, Pirates Savona 15-7 e Steelers Terni, Red Jacket Lunigiana 19-42. In chiusura, come sempre, ricordo i siti dove potrete trovare maggiori informazioni sui vari campionati: www.fidaf.org, sito della Federazione Italiana di American Football, e endzone.it, magazine dedicato interamente al football americano e che comprende anche un forum che ospita la più grossa community di appassionati e detti lavori. Questo non vale, questo è marchetta. Marchettone. Questo chiudo e dalla prossima settimana inizieremo a parlare anche della Serie A. Serie A. Da Torino è tutto per Dai e Vai Radio 24, Alessandro Lucca. Adesso chiudi. E così si capisce che hai chiuso. No? allora diciamo che adesso avrete capito, cari ascoltatori, che c'è un momento nella radiofonia in cui bisogna essere convincenti. Esatto. Cioè non è che bisogna, cioè, se no questo qua è più o meno la pill di una volta di quello che si chiamava l'elenco del telefono. Sì, più o meno la lettura dell'elenco del sì, telefono più o meno, che era una degli esercizi che venivano fatte, voglio dire, per andare in onda prima di fare i notiziari. Cioè, c'è anche diciamo un aspetto positivo per i nostri ascoltatori, che non c'è più l'elenco del telefono. No, per esempio, quello è vero. Che si, diciamo, si può fare di meglio, ecco, si, cioè, può fare di più, si può fare di sicuramente più. Di più. Possiamo mettere come sottotitolo: dammi solo un minuto, si può fare di più. No, adesso no, adesso no, perché loro pensano subito che posso fare due minuti. Quindi va bene. Però andiamo direttamente invece a qualcosa di più importante. C'è una gara che in questo momento sta andando verso la fine. Sono già entrati a Sanremo, no? Sì, hanno fatto il Poggio e sono a 5 km, a 6 km dall'arrivo. Sono rimasti una trentina. Ormai era una specie di tipo i superstiti, eccetera. Eccolo qua, originario di questa Milano-Sanremo, che però ci sta regalando ancora, nonostante il chilometraggio ridotto, grandissime emozioni, perché Davide, a 5 km e mezzo dalla fine siamo giù dal Poggio, veramente giù dal Poggio, giù dal Poggio. Ecco, mi stavi dicendo allora a che punto siamo? Che ci sono quattro corridori in fuga, poi il gruppo sono rimasti circa una trentina in tutto, ce ne sono quattro in fuga, ma hanno poche centinaia di metri di vantaggio sugli inseguitori, anche perché le strade sono bagnate, c'è il pericolo di scivolare, muscoli induriti dal freddo, mani che non riescono a sentire, così. È veramente una cosa epica. Posso dirti, tifosi zero. Beh, così con freddo porco, uno sta a casa, se lo guarda no, a casa. Non dice, non ho detto, non sto commentando la cosa, sto dicendo da un dato di fatto. Sì, cioè, no, ma sai perché lì? Non perché... si può iniziare con la famosa frase di fronte a una splendida codice di pubblico, perché un par di ciufoli non c'è, no, nessuno. No, ma perché lì è un tratto di discesa. Cioè, tu, discesa ardita, tra l'altro, mi viene da dire, con questo freddo. Non ti godi neanche la gara. Assolutamente. Vuoi sentire l'allenatore, mi pare, del Palermo? Sannino, allenatore del Palermo. Ti interessa? Beh, sì, interessante. Puoi anche dire di no. No, no, ma interessante. Stadio dietro, quanti uomini dietro ho. E prima sentivo Vincenzo, caro amico Vincenzo, che ha detto: sai, noi dobbiamo guardare davanti. Cioè, Tom Waits di Noel. No, secondo me sta imitando Cosmi. Non c'è più di tu, quella solo avanti, perciò vorrei che i miei giocatori pensassero così. Ecco, in avanti, in senso... La cosa divertente, perché quelli che ormai non hanno più niente né da vincere né da perdere. Tipo nel senso il Palermo, che, tipo il Palermo, ormai si va lì e si cazzeggia, cioè, si ecco, quella roba lì. No, cioè, esatto, sì, praticamente sì. Sta ridendo Sannino, un allenatore, vabbè che è tornato questa settimana, a che gli frega, esonerato Gasperini, però è bellissima la camicia con le iniziali sul colletto, tra l'altro, se do questo tocco di classe estetica, cioè le iniziali sul colletto della camicia, molto figo, cioè, no, è molto figo, no, molto bello, elegante, bello. Sì, certo, vabbè. No, però a parte questo, guardiamo intanto, seguiamo intanto la Milano-Sanremo, che è quello che ci interessa di più in questo momento, perché è l'unica gara aperta, non penso che ci siano altri campionati aperti, giusto Luca? No, tra l'altro si è anche chiuso il Sei Nazioni femminile. Ci duole dirlo, ma le ragazze hanno perso la terza. Ci hanno chiesto, terza... infatti, sugli SMS, perché non commentate il rugby? E stiamo per commentare il rugby. A Parabiago l'Italia femminile ha perso 6-3. Dove, scusa? A Parabiago, qui alle porte di Milano. Sì, certo. Paraghiago. L'Italia ha perso 6-3 con l'Irlanda. Quindi dopo aver vinto le prime due partite con Francia e Scozia, ne ha subito tre sconfitte. Quindi anche loro hanno vinto due partite. Come i ragazzi, come i colleghi. Ragazzi, Io loro. Non faccio quel collegamento immediato fra una situazione precedente, un evento e la situazione successiva. Non lo faccio, no, però non ho capito quel passaggio, no. Però mi hai entusiasmato. Allora, due vittorie, sì, poi quattro sconfitte, sì, giusto? In e qui stiamo parlando di chi? Di rugby femminile. E mentre invece, al contrario, il rugby maschile si è ripreso con esatto. Questa, perché ci hanno chiesto appunto di comunicare. Di, beh, di 22-15 la vittoria dell'Italia, la seconda vittoria in questo torneo Sei Nazioni. Brunel, l'allenatore della nazionale, addirittura si è sbilanciato parlando con dei tifosi, dicendo che entro due o tre anni al massimo l'Italia vincerà il Sei Nazioni. Siamo arrivati quarti in classifica, in realtà terzi a pari punti con la Scozia, ma avendo perso il confronto diretto siamo quarti. Meglio di così cosa potevamo sperare? Di solito riuscivamo a fare una vittoria risicata, ne abbiamo vinte due quest'anno. Brunel dice che vinceremo il Sei Nazioni, viva il rugby. Sì, beh, calmati, volevo soltanto dirti che ci hanno chiesto anche sul quando si recupererà Sampdoria-Inter. Beh, Sampdoria-Inter si recupererà, doveva essere il 2 aprile, ma non c'è accordo fra le squadre, quindi non ho ancora deciso. Materialmente lo sappiamo. La Milano-Sanremo continua ancora. Attenzione, ultimi chilometri, se la stanno giocando un gruppetto in fuga: Sagan, Cancellara, Stannard e Ciolek. Beh, questi si giocheranno. Lo diranno nel GR. Tra poco, esatto. GR. Dai e vai. Non è solo calcio.

anche su questo direi che dobbiamo aspettare appunto che arrivi un minimo di routine quasi per vedere quale sarà la resa complessiva. Dopodiché una cosa che non abbiamo detto, stiamo parlando di uno sport che in Italia, se la Ferrari va, ha un senso, se non va, certo, ne ha uno completamente diverso, quindi anche loro sono appesi appunto agli attributi, vorrei dire, di, certo, Alonso, che, per vedere come funzioneranno. Ecco. Noi ti ringraziamo moltissimo, io passerei tutta la serata con Antonio Di Poli, ma so che in questo momento vuoi andare a vedere la replica, lo so, tra l'altro la Formula 1 e questo ci riempie per il gioco. Senti Antonio, ti è appena arrivata una mail in cui ti dà la classifica finale del Gran Premio, valla a vedere perché è importante e soprattutto la sigla del nuovo campionato. Grazie Antonio Di Pollina, grazie, a presto, ciao. A risentirci. Bene, insomma, intanto diamo almeno l'aspetto sportivo. Sì, dai, c'è chi ha vinto. Ha vinto Raikkonen su Lotus, secondo è arrivato Alonso, per i pochi che non lo sapessero, dopo le 12 repliche fatte da Sky e quella della Rai. Quindi Raikkonen su Lotus ha vinto, secondo Alonso su Ferrari, terzo Vettel su Red Bull, l'altro ferrarista Massa è arrivato quarto, poi Hamilton sulla Mercedes è arrivato quinto, Webber sesto, Sutil sulla Force India settimo. Questo è l'ordine d'arrivo delle prime posizioni del Gran Premio di Australia di Formula 1. Mail che ti è arrivato per te, sì, che dice: ma voi parlate solo di sport ignoranti come il calcio. Davvero? vergogna, è tutto da cambiare, capito? Esatto, basta, vero, a casa, vai a casa. Abbiamo parlato di curling. Come parlo di curling? Abbiamo parlato di curling. Sport, stiamo parlando di sport adesso, questo non fare queste cose qua. E dunque, polemica ovviamente sul nostro SMS, finalmente vi svegliate anche voi, siete emersi dalla Formula 1, 349-238-6666, ci dicono appunto, invece il problema è quando vedi gli uomini che corrono mezzi nudi dietro una palla, in quel caso resti sveglio, non voglio sapere qual è lo sport, tra l'altro, sì, che corrono mezzi nudi, in questo caso ecco ce l'hanno anche col calcio, sì, penso di sì. Abbiamo capito che la Formula 1 non piace, noi non stiamo entriamo nel merito, non vi piace a noi due, non vi piace, è un'accusa questa, ecco, vabbè, in realtà non è vero, noi ci piace, io vorrei vederla sempre, tutte le volte inizio, cerco di guardarla ma poi mi addormento. Guarda, ma questo non è colpa della Formula 1, è colpa caro mia, caro amico, col 345 tiriamo giù il tuo numero di telefono, al prossimo Gran Premio ti telefoniamo, sì, e stiamo con te alle 7 del mattino a seguire il Gran Premio. Assolutamente, anche assolutamente, perché vanno in Malesia, non è che è molto diverso l'orario. Tra le altre cose, però ci dicono anche, qualcuno ha notizie di Anelka e di Bednar, che ormai ho già perso anche la pronuncia. È là, mentre Anelka è dall'altra parte. Non era finita nemmeno. Ah, scusa se ti disturbo. Posso chiedere a voi o chiamo direttamente a chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Assolutamente. Vogliamo dare intanto la classifica, che ogni tanto potrebbe anche essere utile, perché così sembriamo che diamo anche così delle cose di servizio, degli elementi di servizio qua e là. La Juventus ha già vinto il campionato. Basta! È vero, ha 9 punti di vantaggio sul Napoli. 65 punti Juventus, Napoli 56, il Milan ha 54 punti, la Fiorentina 51. Poi ci sono Inter e Lazio 47, la Lazio giocherà stasera col Torino, l'Inter invece recupererà con la Sampdoria. Catania 45, Roma 44 che deve giocare stasera col Parma, Udinese 41, poi c'è un gruppone, sai il gruppone? Perché c'era la Milano-Sanremo, c'era il gruppone. Vabbè, allora, Sampdoria, Parma, Bologna, sì, Cagliari, Chievo a 35 punti, l'Atalanta a 33, il Torino a 32, Genoa a 26, Siena a 25 che spera ancora, mentre Pescara e Palermo non sperano più, sono a 21 punti già in B. No, quella cosa interessante è qualcuno ha scoperto invece quando ci sarà Sampdoria Inter. Non lo sapremo mai. No, non si sa ancora perché non sono ancora d'accordo. Normalmente in questo caso, quando c'è un rinvio per maltempo lo fanno il giorno dopo, però ci sono le nazionali questa settimana, quindi non possono giocare la partita domani. Si era proposto il 2 di aprile alle 18:30, ma non c'è accordo fra le società e quindi devono ancora decidere. Vi ricordo anche che c'è un altro piccolo particolare, abbiamo detto per favore mandateci se potete degli sms su dove eravate quando avete visto Italia-Brasile. Quale Italia-Brasile? Scegliete voi, non ha nessuna importanza. Dai, vai, Radio 24, pronto Giorgio? Pronto, buonasera. Come va Giorgio? Benissimo. Tutto bene? Sì, senta, posso parlare Gran Premio di Formula 1? Velocissimo, allora, vai. Avvisi tutti i telespettatori che metà Piemonte, tutta Lombardia e Lombardia fino a oltre Piacenza, digitale terrestre, canale 57 da Lugano e canale 39 da Castel San Pietro, la Svizzera italiana trasmette tutti i Gran Premi di Formula 1 in diretta. Ok, in okay. Diretta. Allora Giorgio, ci potresti lasciare il nome e numero di telefono? Gli avvocati di Sky hanno già chiamato per sapere tutti i tuoi dati. Va bene. Bene, grazie Giorgio, grazie per l'informazione. Mi raccomando, le mandano in diretta. No, infatti è legittimo. E quindi noi di confine, non quindi possiamo che seguire. No? Ecco, però ovviamente vi siete scatenati appena abbiamo detto che di darvi una mossa. Ovviamente sul 349-238-6666. No, finiamo il discorso per quanto riguarda il Brasile. Sì. Italia-Brasile, quando l'ultima volta che l'avete vista, dove eravate? Perché sicuramente vi ricorderete dove quell'Italia-Brasile lì, quel non vostro Italia-Brasile. Ma quale? Quello 82. Quella, il vostro Italia, quella che vi ricordate, quella che voi in qualche modo avete vissuto, anche quella che in qualche modo qualcuno è stata offuscata da Italia-Germania, sì. No? Cioè nel Messico, no? Poi in realtà dopo c'è stata Italia-Brasile, solo sì. Che tutti fanno fila di niente, che c'era un signorino come Pelé, esatto. Che voglio dire, no? Cioè quella foto dove c'è che gli arriva la milza, Burnic, no? Che saltano tutti e due e arriva la milza di Pelé, insomma, sì. No? Ecco, in questo caso, vabbè, comunque queste sono cose che insomma, potete fare direttamente, potete mandarcelo anche sul nostro SMS 349-238-6666. Ne parleremo stasera alle 22, bene sì, perché la sì. Domanda di che si fanno adesso i nostri ascoltatori, ma che si tornano anche alle 22? Sì, torniamo sì. Anche alle 22, sono problemi vostri, però non siete obbligati ad ascoltarci. Però alle 22 torniamo per un'ora fino alle 23, non è sì. Che facciamo poi due ore dopo, e mezza come al pomeriggio. Dormiamo. No, ecco, abbiate il coraggio di dire che Sky è la pietra tombale dello sport, degli sport, specialmente gli sport minori, lo sport di tutti. Lo sport è di tutti. Lo sport è di tutti. Viva gli impianti. Ah, ecco. Viva gli impianti pieni. Viva gli impianti pieni. Quindi, lo sport è di tutti. Quindi noi siamo a favore dello sport moderno. No, no. Non c'entra niente in questo passaggio qua. Benissimo, allora noi andiamo avanti a parlare anche di app, andiamo a parlare anche di tecnologia applicata o comunque ai confini. Ne abbiamo parlato fino adesso, tra l'altro, su come si racconta lo sport. Adesso andiamo a parlare con il web che entra dentro in alcuni momenti nello sport. Ma anche gli smartphone. Soprattutto il fatto che anche tu vai in giro, sì. Una volta si andava in giro negli anni 70-80 con la radiolina, certo. E con l'auricolare, vedevi tutte queste famiglie in cui spesso era lui che aveva l'auricolare, invece adesso si va in giro con questa app, poi sì. Vai a sbattere contro un palo, però c'è l'app e lo smartphone. No, perché sbaglio? Ding! Dici che lo smartphone mia dice ding, esatto. E mi avvisa che è iniziata la partita, ding ding, esatto. È finita la partita. Quando c'è il gol. Ridin, queste cose qua. Bene, parliamo con Marco Negri che pronto Marco, ci sei? Buonasera. Possiamo darci del tu, quanti anni hai? 12 tu, quanti anni hai? 23, vedi, 23. Come dire, cioè tutti quelli che lavorano poi nel web o comunque lavorano nell'informatica sono tutti giovani, quindi in questo caso ti abbiamo chiamato perché abbiamo scoperto di questa app di Thai Live Score, giusto? Esatto. Ecco. È un'app che è una delle app italiane più scaricate al mondo per Windows Phone, quindi per una categoria particolare di telefoni Windows Phone. Tu hai fatto questa app che è una delle più scaricate al mondo perché? Perché puoi seguire in tempo reale tutti i principali campionati europei, sì. E ad esempio questa applicazione abbiamo la Serie A, la Champions League, la Bundesliga, la Ligue 1 e tutti questi campionati li puoi seguire tempo reale, consultare classifiche, capocannonieri e poi ricevere tutte le notifiche quando avviene un gol oppure la partita è finita. Cioè ti aggiorna in tempo reale sul cambiamento dei risultati di tutte le partite? Esatto. Ma la domanda che mi viene spontanea è, cioè voi avete... Ma è così triste come... No, quando dico no, no, no, voglio no. Dire. Sarà più allegro l'app, voglio dire, in qualche modo. Praticamente Windows Phone abbiamo le live tiles che sono delle piastrelle interattive dove si possono visualizzare i risultati in tempo reale. Quindi senza entrare nell'applicazione si può già visualizzare il risultato. Sì. Ho capito. Che cosa c'è in più rispetto alle altre? Perché io ne sono inondato sul mio cellulare di app dedicate al calcio. Cosa c'è in più? Perché viene scaricata così tanto? E diciamo che l'innovazione sono le live tiles. Scusa? Live Tiles. Queste sono delle piastrelle dove vengono mostrati i risultati, quindi senza aprire l'applicazione tu sblocchi lo smartphone e puoi guardare già il risultato. Ah, cioè praticamente sullo schermo del telefono, senza aprire l'applicazione, tu hai già quelle 3-4 partite che vuoi seguire in quel momento che si aggiornano in tempo reale, questa esatto, è la novità? Esatto. Hai capito. Ah, quindi tu poi sostanzialmente puoi decidere prima quali le partite da seguire? Sì, sì. E puoi decidere in base alla settimana se ci sono delle partite importanti, oppure decidi all'inizio del campionato poi rimarranno solo quelle, cioè nel senso io seguo una squadra e adesso da questo momento, da quando ho iniziato a seguire quella squadra, mi viene segnalato anche quando vanno a mangiare la sera insieme, no? Cioè qualsiasi esatto. cosa esatto, tu puoi scegliere dal calendario, scegli quale partita ti interessa e la pigni, si dice cosa fai là? La pigni? Pin, sì, si dice come pigna? Pinni. La Pinni. Sulla home screen la puoi seguire. Siamo già fuori da te, cioè, sì. già su Pinni siamo fuori. Non so se hai notato l'impazienza, vabbè, devo ripetere la terza volta Pinni, vabbè, Pinni. No, capito, no? Sai cosa fa il nonno rintronato? No? Più cioè, o meno. Questa sì, un po' cioè, così, questa del nonno rin... vabbè. L'hanno detto bene, tra l'altro, per certi versi. Quindi una volta che pinni la partita, te la metti sullo schermo e vedi tutto quello che succede, giusto? Esatto. Senti, cosa costa? No, è gratuita. Ecco, scusa Marco, tu tifi per quale squadra? Juventus. Ecco, vedi? È cioè, uno che pinna, tifa Juventus. Ecco, quindi tu segui il calcio, quindi... Sì, sì. Cioè, tu segui un po' il bel calcio, per certi versi. Mi verrebbe da dire che tu eri pronto a dire la cattiveria, in attesa che lui dicesse Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina. No, e adesso la cattiveria la dici, Juventino. Non ho nessuna cattiveria da dire in questo caso. Però, avendo 23 anni, cosa gli diciamo? Tu, l'ultima partita dell'Italia contro il Brasile, qual è quella che ti ricordi? L'unica, probabilmente, che ti ricordi? Ah, non me la ricordo. Non te la ricordi? No, non c'hai un Italia-Brasile? Non c'hai un Italia-Brasile? Io non me la ricordo. No, non te la ricordi, va bene. Senti, ma scusa, ma tu dove guadagni su sta cosa? Perché l'app è gratis, cioè non guadagni niente, lo fatti fai per passione. Di cavoli tuoi. No, cioè, mi interessa, cioè scusa. Cioè, dov'è che fai la cresta, insomma? Qualcosa con la pubblicità, ma poco. Però scusa, sei quella più scaricata, l'app italiana più scaricata nel mondo, giusto? Sì. Nokia Apps Highlights, giusto? Sì, Del calcio è più scaricata, però guadagno non è molto. Ah, il concetto di essere l'app più scaricata italiana, è italiana che li frega, perché sì. Le altre sono le scarica un 5, lui le scarica 8, capito, in questo caso. Marco, è stato un piacere sentirti. Sentiamoci grazie spesso. Ciao, grazie. Ciao. Vabbè, insomma. No, scusa, sto pinnando un attimo sul mio smartphone. Pinni? Io pinno. Vabbè, questa è la cosa che sta. Intanto cominciano ad arrivare i ricordi per davvero. Quanto riguarda l'Italia-Brasile, Mondiale 82. Era ad Egham, Londra, vacanze in un college. Lo ricorda bellissimo, ovviamente, per figurati, quando si è all'estero poi diventa subito un momento emozionante. E quindi anche un altro che si dice: nell'82 ero con mia moglie in vacanza al mare a Marina di Camerota e alla fine della partita, vabbè, questo ve lo racconteremo stasera dopo, vedrete. Alla fine della partita, perché sto già arrossendo, io ti dico, sto già arrossendo in Giuseppe questo momento. Di Roma ha una storia bellissima su Italia-Brasile stasera alle 22 qui su Radio 24. Dai, vai, saprete che cosa ha fatto con sua moglie a Marina di Camerota dopo Italia-Brasile. Sì, troppo Camerota hard. Esatto. Vabbè, no, niente. Mario da Roma, pronto. Buonasera. Ciao. Tu eri dove? Hai vedere. Intanto... No, scusa, prima di Roma tutto. Roma è un bellissimo ricordo perché ero al lavoro, ero a casa di Pertini. Di chi? Del presidente Pertini. Ma dai, grandissimo. Sì. E quella mattina, uscendo, la signora Carla lo lasciò sul pianerottolo, diciamo, come era suo solito, e lui, non sapendo come, si parlò di calcio. Di Brasile-Italia. Sì. E su era la paura, dice: ma noi come facciamo? Dice: con Falcao e Paolo Rossi gli passa sotto, non ci riusciremo mai a vincere. E io dici: vedi, adesso stia tranquillo, vedrà che Paolo Rossi è veloce. Scusa Mario, ma tu cosa ci facevi a casa di Pertini quella mattina? E io ci lavoravo, ecco. Che lavoro facevi? No, io ero nella sicurezza, diciamo. Ho capito. E Pertini era uno che sgusciava via sempre, eh? Voi della con noi tutti era molto vicino. Si faceva marcare bene. Scusa una cosa, Mario, tu il telefonino ce l'hai? Sì. Tu pinni? Sì. Pinna ha detto di sì, ha detto di sì. Mario Pinna, quindi. Vabbè, ma quindi voi la partita, cioè, com'è stata? Cioè, in quel momento, cioè, quando proprio si è giocato, dove eri? Cioè, con lui? No. Lui no. Però quando poi ritornò, sì, disse che ci avrebbe portato tutti in Spagna. Poi non c'era posto sull'aereo, però. Ah, però, mannaggia. Si è riempito tutto. Vabbè, questo è un po' così. Quindi possiamo dire che Pertini, prima di Italia-Brasile, non era così convinto, però dopo Italia... No, assolutamente no, assolutamente no. Però lui dopo si è convinto, dopo è andato sempre in crescendo. Senti, Mario, ma lui quando è che è andato in Spagna? Perché mi pare che anche quella solo per la finale. Solo per la finale? Sì. Vabbè, ma allora scusa, Italia, non era la finale quella dell'Italia-Brasile, cioè... No, era no, nel girone. Infatti, i gironi, in questo caso. Infatti, lui era ancora in Italia. Con Argentina e Brasile. Ho capito, va bene, grazie, ciao Mario. A voi, piacere, ciao. Ciao. Bene, quindi cominciano a uscire fuori, no, questi ricordi. Ricordiamo, stasera ne parleremo e ricorderemo ancora altri momenti dedicati all'Italia-Brasile, perché ovviamente in questo momento non ne parla nessuno. Voi parlate sempre solo di calcio, esatto. Comunque, cioè, voglio dire, in questo caso. E poi però ci sono anche altre cose che ci dicono, ma gli attributi bisogna averli solo per dare un calcio al pallone e correre ai 300 all'ora, 300 km orari su una Formula 1, cosa bisogna avere? Ragazzi, basta, si può trovare anche altri termini, altri sinonimi, non necessariamente bisogna sempre ricordare questa cosa, diventa un po' ossessivo, cioè, no? È come quei signori, quegli uomini, cioè, io detesto gli uomini che tutte le volte che parlano fanno, andiamo a prendere l'aperitivo là, e poi continuano a toccarsi, vabbè, è, sempre no, dai, è fastidioso, è fastidioso, sono tutti, guarda, è una cosa fastidiosa, è una cosa che viene in mente, sempre queste cose qua. Poi sì, ricordiamo l'ascoltatore che ha scritto sul 349-238-6666 che noi siamo quelli contro il fatto che si dica degli attributi, certo, cioè, non è che diciamo per il calcio sì, per la Formula 1 sì, no, diciamo noi, che non sia il caso di usare altri termini. Ho capito, Luca, stai cercando di semplificare il messaggio, no. Noi siamo a favore o contro, esatto. Cioè, per noi dire attributi è male, esatto. Non bene, capito? No, perché bene, male. La cosa che mi ha lasciato un po' così è che non è arrivato neanche un SMS che abbia chiesto che cosa vuol dire pinnare. Gli unici due che non l'hanno capito siamo io e te. No, io pinnare, cioè, voglio dire, cioè, dipende anche, no, ma figurati se pinno, cioè pinnare, già penso a quello, una roba tipo mare, esatto, con le pinne, esatto, però cose su uno smartphone non viene bene. No, intanto ricordiamo però 800 24 00 24, ancora qua se volete ovviamente telefonare, dire che cosa e dove eravate per Italia-Brasile, se no ce lo direte questa sera. Al 349 238 6666 invece voi potete mandare i vostri SMS che stanno arrivando più o meno copiosi. Gol fantasma di Capello, peccato io fossi in curva sud, quindi dall'altra parte immagino. Sì, Italia-Brasile 2-0, gol fantasma di Capello, peccato io fossi in curva sud, l'ho detto. Dopo un paio di minuti ho capito quello che era successo. Va bene, ne sapremo dopo il traffico. Siena Cagliari 0-0, l'anticipo delle 12:30, risultati di oggi pomeriggio: Fiorentina Genoa 3-2, Milan Palermo 2-0, 3-2 anche per il Napoli sull'Atalanta, e il Chievo ha vinto a Pescara 2-0. Parla di neve a Torino, sì. Lo diciamo, cioè, pare neve o pioggia? Proprio neve, ci sono i teloni sul campo dell'Olimpico dove stasera si dovrebbe giocare Torino-Lazio. Ricordiamo che una è già saltata, cioè Sampdoria-Inter non si gioca causa maltempo, verrà rinviata, cioè è stata rinviata, non si sa quando, verrà recuperata. Roma-Parma invece tutto tranquillo, l'altro posticipo di questa sera Torino-Lazio, non diciamo che è in forse, però sta nevicando a Torino, ci sono i teloni sul campo, non li hanno ancora tolti, viene giù la neve, queste cose qua. Vabbè, cioè, non essere romantico, cioè, che ti stai già facendo facendo trasportare da questa notizia. Beh, allora, la cosa interessante è invece capire se, se c'è qualcuno di Torino vicino, perlomeno anche allo stadio, al comunale, ci può dire se sta nevicando o no. Questo a noi ci farebbe anche molto piacere. 824 0024 824 0024 per i timidi invece 349 238 6666. Ma abbiamo al telefono invece la Angelo Manfredini del coordinamento del club di Parma. Pronto? Sì, pronto, buonasera a tutti. Come va Angelo, tutto bene? Bene, bene, tutto bene. Senti, siamo, voi state... siamo appena arrivati a Roma, siamo al casello dell'8 sala di Roma. Siete, siete già lì? Vi vengono a prendere, dico, i poliziotti? Sì, sì, infatti stiamo aspettando che la polizia finisca di controllare i pullman per entrare poi in Roma e portarci verso lo stadio. Che controlli fanno ai pullman quando arrivate al casello? Ma controllano se ci sono bottiglie, se ci sono armi contundenti, insomma, roba che noi, il massimo che possono trovare sono salami e prosciutti. E qualche scaglia di formaggio. E tra l'altro i rimasugli, perché già lì vi siete scofanati prima, o no? Sì, infatti hanno trovato solo i residui, perché il resto hanno mangiato durante il tragitto. E voi non offrite ai poliziotti? Non ho capito. Non offrite un po' di parmigiano, un po' di salumi ai poliziotti? Non offrite niente? Ma guarda, io ho provato a offrire un bicchiere di Lambrusco, ma hanno detto che loro in servizio non bevono. Allora, beh, certo, l'hai fatto apposta. Angelo, l'hai fatto apposta, sapevi che non potevano bere. Infatti, bravo. Ero sicuro che non l'avrebbero bevuto. Tu dagli giù due fette come si deve di prosciuttone, vedi che ce lo portano a casa quello, insomma. Senti, allora, quanti siete? Guarda, noi siamo in circa 80-90 persone. Quindi un paio di pullman? Visto la distanza, visto l'orario... E il tempo soprattutto. Questa sera, e secondo me da Parma, insomma, è un buon numero venire a Roma, visto che arriveremo a Parma domani mattina verso le 6. E la gente fortunatamente lavora ancora. Per scusa, cosa fate nella notte? Scusa, cosa fate verso le fino alle 6? Cioè? No, arriviamo a Parma domani mattina alle 6. Ma come mai? Probabilmente ci terranno circa un'ora dentro lo stadio, perché le procedure sono queste: aspettando che si liberi il traffico attorno all'Olimpico, poi partiamo e Parma, Roma-Parma saranno circa 5-6 ore di viaggio, per cui prevedo che arriveremo a Parma più o meno verso le 6 della mattina. No, hai capito, però... è un'impresa. E poi c'è gente che fa il direttore, cioè dorme un po' in pullman e poi va direttamente a lavorare? Esatto, bravo. C'è gente che dorme in pullman, poi come arriviamo si porta sul posto di lavoro direttamente, si fa questa giornata di lavoro dopo la trasferta per seguire i colori giallo-blu. Senti, costo della trasferta, il costo della vostra trasferta? La trasferta, viaggio e biglietto sono 50 euro, un prezzo secondo me ragionevole, visto in abbordabile, abbordabile, no? Abbordabile anche con diciamo un buon contributo messo da parte del centro coordinamento. Contribuite voi? Perché sennò sarebbe stato il doppio il costo. Come minimo. Senti, e i salumi e il grana, chi è che l'ha preso? Il centro coordinamento anche quello? Oppure salume e grana, diciamo che a Parma ognuno di noi ha in casa un etto di prosciutto e un chilo di grano, per cui ognuno porta un qualcosa, chi una bottiglia di Lambrusco e mettiamo tutto insieme, insomma. Siete un po' spiazzati sul pane, ma non importa, magari, cioè tutte le cose concrete voi, insomma, è molto... Senti... Sì. Dimmi pure. No, però volevo capire più o meno le professioni, cioè tu hai davanti a te un'ottantina di persone, così guardali un attimo, dacci le professioni che loro fanno. Ma guarda, professioni qua abbiamo di tutto, abbiamo dai commercianti, abbiamo dagli operai, abbiamo dagli impiegati, insomma un po' tutte le mansioni, pensionati che queste non hanno fortunatamente il problema di rientrare per andare a lavoro. Abbiamo un po' tutte le categorie, insomma, su Puma. Abbiamo ragazzi giovani, c'è anche purtroppo chi non ha lavoro, e qui ecco perché il centro coordinamento Parma Club cerca di aiutare la gente ad andare in trasferta per queste motivi. Cioè, quindi un po' di tutte le professioni, compresi anche gli esodati, insomma, esatto, in qualche modo. Esatto. Abbiamo anche purtroppo degli esodati. Ecco, va bene. Senti, stasera chi vi fa più paura, Totti, Osvaldo o Lamela? Non ho capito, scusa. Chi vi fa più paura, Totti, Osvaldo o Lamela? Ma guarda, chi ci fa paura, la Roma è una squadra sempre ostica da affrontare. Ti dirò che in 22 anni di Serie A il Parma Roma ha vinto una sola volta. Ecco, comunque tu c'eri? Noi siamo partiti da Parma fiduciosi, perché guai a partire da casa con, come dire, già sconfitti. Questo assolutamente no. Sì. Per cui insomma la fiducia c'è, noi andiamo allo stadio convinti di fare il risultato, poi dopo cerchiamo il risultato che viene, beh, certo, senza fare dei drammi. Senti, se mai ci risentiamo questa sera, intanto grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi, buona serata. Saluta a tutti. Ci sentiamo dopo la sera, dopo la partita. Grazie, ciao, grazie. Vai Angelo. Ci dicono che a Torino nevica, mi sta acqua, però sì, subito sotto ci dicono anche: io sono di Torino, e questo di per sé non è meteorologicamente. Fa subito il pin, meteorologicamente, no? Sì, dici bene, però poi non sai cos'è il pin, esatto. Io sono di Torino e nevica bello grosso stasera. Per giocare i calciatori dovranno mostrare veramente di avere le spalle larghe. Ti ringraziamo per avere in qualche modo detto qualche cosa in più rispetto al mondo del calcio, alla comunicazione del mondo del calcio, ma poi ci sono anche altre cose. Ci cominciano ad arrivare ovviamente dei messaggi per quanto riguarda questa sera il dibattito che faremo. Lo faremo insieme a voi, cari ascoltatori, o se no leggeremo i vostri sms. Diciamo che più che un dibattito sarà un racconto collettivo, perché ognuno porterà il suo contributo. Oh, io lo chiamo come mi piace, lo voglio chiamare dibattito, voglio fare il dibattito, ma si dibatte su tutto, voglio il dibattito. Però se vogliamo raccontare le nostre memorie collettive, possiamo anche fare pinnare c'è scritto un lì, non riesco a leggere perché c'è sempre queste cose scritte male. Dice pinnate un po' a rugby, Sky lo fa, ciao Christian, ecco. Questo è Christian sul 349 238 6666. Ma chi è che non pinna il rugby adesso? Adesso ci stai dicendo che noi non pinniamo il rugby. Ma dai, deriva da pin, spilletta o puntina, modalità in cui si emette un'app sulla schermata iniziale di Windows. Devo dirti tutto, scusa, c'è scritto. No, certo. Grazie per la collaborazione, ovviamente redazionale a questo punto, per tutto quello che fa. Grazie ovviamente anche a Pietro Lacorte e a Roberto Scaltriti che ci hanno seguito al mixer. Ovviamente è stato ancora con noi Giorgio De Luca e assistente al programma, e con anche Luca Cancellara in studio. Purtroppo c'è stato ancora una volta Luca Gattuso, e purtroppo di fianco a lui c'è stato Sergio Ferrentino. Nel frattempo stanno inquadrando ormai sempre gli spogliatoi, in questo momento per fortuna vuoti, della Roma. Roma, e questo non so se è bene o se è male di per sé, però sono quelle cose che ci interessano relativamente. Ci dicono anche, mi ricordo, vi dico alcune cose che arrivano. Guarda, questa qua è carina, questa Italia, qua. Italia-Brasile, mi ricordo quel luglio 1970 in Messico, che il nostro padrone il sabato mattina. Si lavorava 44 ore settimanali, capito Luca Cancellara? 44 ore settimanali, no? Ci disse che se vinceva l'Italia lunedì ci pagava la giornata e stavamo a casa, eh? Cioè, questo per darti un'idea di che cosa stiamo parlando, di momenti epici. Ho l'impressione che l'ascoltatore sia andato a lavorare quel lunedì mattina. Sì. Mettete il nome, ascoltatori, quando mandate gli sms 349 238 666. Scusa, sembra un po' una minaccia questa. Ma almeno li chiamiamo, Pippo, Pluto, Paperino, come si chiama? Ma scusa, se non vuole metterlo in questo caso. Però ecco, questo per dire, e stiamo parlando, mi pare che sia il primo che ci ha mandato l'Italia-Brasile del 1970, che altri non hanno ancora mandato, mentre invece tutti ovviamente si ricordano il mondiale dell'82, Italia-Brasile, Falcao, abbiamo avuto persino la sicurezza di Pertini che ci ha telefonato oggi, e questo ci ha riempito di gioia. Noi l'unica cosa che possiamo dirvi è che Cavani ha fatto due gol, quindi per tutti quelli che sono interessati al fantacalcio possono cominciare a fare i conti. Noi ne parleremo. Anche Balotelli, Balotelli è ovvio che fa due gol. Lascia stare. Vabbè, segnato il solito rigore. Noi vi diamo appuntamento questa sera sempre con Dai e Vai, sempre su Radio 24. Grazie, a risentirci.